Noi tutti abbiamo dei problemi. Lo so per esperienza e lo vedo negli altri. Dopo più di 40 anni di vita cristiana, la parola di Dio mi ha persuaso che invece di problemi ce n'è, è uno solo. Non ho fatto nessuna scoperta sensazionale, non c'è e nulla di nuovo sotto il sole, ma piuttosto quello che è cambiato in me è stata una convinzione. Oggi sono convinto che vi è un solo problema. Questa convinzione ha cambiato il mio modo di pensare e sta cambiando anche il mio modo di agire. In cosa consiste questo unico problema? Il vero e unico problema di noi esseri umani si chiama peccato. La parola peccato, o i suoi sinonimi, percorre tutta la Bibbia. È la parola che si trova scritta più frequentemente nel libro di Dio. Eppure, se ci pensiamo bene, è la parola meno usata nel mondo. E, tante volte, anche fra i credenti. Ma nonostante ciò, il peccato rimane il solo e unico problema per quanto riguarda il nostro rapporto con Dio, con il prossimo e con noi stessi. Il peccato crea una disarmonia in tali rapporti, e noi vedremo questa disarmonia sotto i tre seguenti aspetti. 1. Il peccato per quanto riguarda la nostra relazione verso Dio. Così si è espresso l'Eterno Dio tramite il profeta Isaia. Ecco, la mano dell'Eterno non è troppo corta per salvare, né il suo orecchio troppo duro per udire. Ma le vostre iniquità hanno prodotto una separazione fra voi e il vostro Dio e i vostri peccati. Hanno fatto nascondere la sua faccia da voi, per non darvi ascolto, poiché le vostre mani sono contaminate di sangue e le vostre dita di iniquità. Le vostre labbra proferiscono menzogna, la vostra lingua sussurra perversità. Nessuno muove causa con giustizia, nessuno la difende con verità. Hanno fiducia nelle parole vuote e dicono il falso, concepiscono il male e partoriscono l'iniquità. Isaia 59, 1 a 4. Questa promessa dell'Eterno ha un valore inestimabile perché se ci è una cosa della quale abbiamo disperatamente bisogno, è proprio la salvezza. La salvezza dalla perdizione eterna, la salvezza giornaliera da situazioni difficili e la salvezza dal giudizio di Dio per tutti gli uomini peccatori. Essere salvati è il bisogno più grande delle creature limitate e deboli quali siamo. L'Eterno promette che può salvare. Promette che è disposto a salvare. Promette che non ci sono ostacoli che Lui non possa rimuovere. Ma non può farlo. Vi è un ostacolo che limita o impedisce il suo intervento. Questo ostacolo è il peccato. Se prendiamo in esame i peccati che l'Eterno attribuisce al popolo, notiamo che non sono poi cose così gravi. L'Eterno parla di menzogna, di un cammino non corretto. Si riferisce a coloro che desiderano promuovere contese senza però un giusta causa e a coloro che non intervengono a favore di ciò che è giusto. Se consideriamo queste malefatte che l'Eterno rimprovera al popolo di Israele, non sono nient'altro che le azioni di ogni popolo, compreso quello italiano. Ebbene, questo comportamento ostacola una relazione diretta con Dio, impedendone l'intervento per aiutare o salvare il popolo. Queste non sono solo parole, non sono solo riflessioni moralistiche, ma è una dura realtà che vediamo ogni giorno. Sono molti coloro che si lamentano perché Dio non interviene. Sono troppi coloro che alzano il pugno al cielo per ciò che non va, ma non si prendono l'impegno di esaminare il loro comportamento. Sempre il profeta Isaia dichiara: «Attenetevi alla legge e alla testimonianza. Se un popolo non parla in questo modo, non vi è per lui nessuna aurora. Si aggirerà per il paese affranto e affamato, e quando sarà affamato si irriterà e maledirà il suo re e il suo Dio. Volgerà lo sguardo in alto, poi lo volgerà verso la terra, ed ecco calamità, tenebre, oscurità, piena di angoscia, e sarà sospinto nelle più fitte tenebre». Isaia 8.2022. Cosa sperare dunque per chi non ascolta la voce di Dio? Qual è il vero problema per la decadenza morale di un popolo? Qual è il vero problema se un popolo vede solo oscurità, se volge lo sguardo in alto e poi in basso, ma non trova nessuna risposta? Il problema è uno solo, il peccato, cioè tutto ciò che Dio disapprova. È bene ricordare che il peccato non è una parola per religiosi, non è un termine per spaventare le persone. e non è neppure qualcosa sempre di orrendo, ma un comportamento che separa l'uomo da Dio. È l'unica ragione per la quale Dio è impossibilitato ad aiutare le persone. È anche vero che, nella sua misericordia, a volte Dio interviene, ma è solo perché egli fa splendere il sole non solo sui buoni, ma anche sui cattivi, e perché se Dio non intervenisse mai nella sua immeritata compassione, l'uomo scomparirebbe dalla faccia della terra. Il peccato separa l'uomo da Dio, anche se Dio, essendo amore, agisce a favore degli uomini. Chi comprende questo non può che adorare Cristo Gesù e astenersi dal compiere tutto ciò che non è gradito al Dio Trino dei cristiani. 2. Il peccato per quanto riguarda la nostra relazione al prossimo. In merito a ciò che separa l'uomo dal suo prossimo, scegliamo un brano della lettera dell'Apostolo Paolo agli Efesini, dove l'Apostolo istruisce delle persone che non sono cresciute con la conoscenza della legge come i giudei. Questo dunque io dico e attesto nel Signore: non comportatevi più come si comportano i pagani nella vanità dei loro pensieri, con l'intelligenza ottenebrata e estranei alla vita di Dio, a motivo dell'ignoranza che è in loro, a motivo dell'indurimento del loro cuore. Essi, avendo perduto ogni sentimento, si sono abbandonati alla dissolutezza, fino a commettere ogni specie di impurità con avidità insaziabile. Ma voi non è così che avete imparato a conoscere Cristo. Seppure gli avete dato ascolto e in lui siete stati istruiti secondo la verità che in Gesù, avete imparato, per quanto concerne la vostra condotta, di prima spogliarvi del vecchio uomo che si corrompe seguendo le passioni ingannatrici, a essere invece rinnovati nello spirito della vostra mente e a rivestire l'uomo nuovo che è creato a immagine di Dio nella giustizia e nella santità che procedono dalla verità. Perciò, bandita la menzogna, ognuno dica la verità al suo prossimo, perché siamo membra gli uni degli altri. Adiratevi e non peccate, il sole non tramonti sopra la vostra ira e non fate posto al diavolo. Chi rubava non rubi più, ma si affatichi piuttosto a lavorare onestamente con le proprie mani, affinché abbia qualcosa da dare a colui che è nel bisogno. Nessuna cattiva parola esca dalla vostra bocca, ma se ne avete qualcuna buona, che edifichi secondo il bisogno, ditela affinché conferisca grazia a chi l'ascolta. Non rattristate lo Spirito Santo di Dio, con il quale siete stati suggellati per il giorno della redenzione. Sia tolta da voi ogni amarezza, ogni cruccio e ira e clamore e parola offensiva con ogni sorta di cattiveria. Siate invece benevoli e misericordiosi gli uni verso gli altri, perdonandovi a vicenda come anche Dio vi ha perdonati in Cristo. 4:17-33. Questa lunga lettura potrebbe anche aver annoiato. Ma se pensiamo che le nazioni hanno migliaia e migliaia di leggi per favorire e mantenere la pace e l'armonia tra le persone, quello che abbiamo letto è ben poco in confronto. Si dice inoltre che la Bibbia sia un libro difficile, ma nessuno può dire di non aver capito che per avere una sana relazione con il prossimo non deve, tra le tante cose, rubare, ma deve parlare bene, deve mantenere dei sentimenti di pace e di amicizia, e infine deve perdonare. Come perché non vi siano incidenti, è sufficiente osservare il codice civile, così perché vi sia armonia tra le persone è sufficiente osservare le leggi di Dio. Dunque il peccato è solo il peccato, che separa gli uomini gli uni dagli altri. 3. Il peccato per quanto riguarda la relazione con noi stessi. Prendiamo come esempio un solo passo della Scrittura. Virgolette: per la grazia che mi è stata data, dico a ciascuno che si trovi fra voi di non avere alcun concetto più alto di quello che conviene avere, ma di avere un concetto sobrio, secondo la misura della fede che Dio ha distribuito a ciascuno. Romani 12:3. Il peccato spezza non solo l'armonia con Dio e con il prossimo, ma anche quella personale. Infatti, non siamo più capaci meno, o non siamo mai stati capaci meno, di ragionare correttamente e di avere di se stessi un concetto o una valutazione sobria, poiché ci relazioniamo con il prossimo condizionati dall'opinione che abbiamo di noi stessi. Se pensiamo di essere più intelligenti, daremo poca importanza a quello che ci viene detto, mentre se pensiamo di non aver bisogno di Cristo e del suo insegnamento, per forza di cose la parola di Dio avrà ben poco da dirci. Inoltre, in una comunità cristiana, se i credenti non hanno una corretta opinione di se stessi, ci sarà chi guida mentre dovrebbe essere guidato, chi predica mentre non dovrebbe parlare, e ci sarà chi tace mentre dovrebbe parlare. Di fronte a questa catastrofica mancanza d'armonia con Dio, con il prossimo e con noi stessi, gettiamo la spugna? No, assolutamente no. Quando il Dio Trino parla di peccato, di separazione e di perdizione è perché ha una soluzione. Questa la possiamo cogliere nell'invito abbastanza conosciuto del profeta Isaia. Virgolette. Togliete dalla mia presenza la malvagità delle vostre azioni, cessate di fare il male, imparate a fare il bene, cercate la giustizia, soccorrete l'oppresso, rendete giustizia all'orfano, difendete la causa della vedova. Venite quindi e discutiamo assieme, dice l'Eterno, anche se i vostri peccati fossero come scarlatto, diventeranno bianchi come neve, anche se fossero rossi come porpora, diventeranno come lana. Se siete disposti a obbedire, mangerete le cose migliori del paese. 1.16.19. Diagnosticato il male, l'Eterno Dio, come il miglior professore che esista in questo universo, ne ha prescritto anche la cura. Non vi sono dubbi che il vero e unico problema per tutte le cose è il peccato. Però se vi è un cambiamento di condotta diretto a osservare la volontà di Dio, tutto si rimedia. È come per chi beve troppo alcol e ha la cirrosi epatica. Il dottore consiglia di astenersi dal bere alcolici, poi sta al malato ubbidire o no. Il detto «puoi portare l'asino alla fonte ma non puoi obbligarlo a bere» vale anche nel campo spirituale. Gesù Cristo invita tutte le persone ad osservare la legge di Dio. Se qualcuno non ascolta e poi vede le cose andare a rovescio, non è colpa di Dio ma dell'uomo. Mentre il grande dottore è Dio, Gesù Cristo rimane Dio, l'uomo, che non ascolta, rimane l'asino che non beve. Se poi muore di sete, affari suoi. Gennaio 2007. Ellero.